abbiamo guardato al vissuto di ragazzi, ragazze che sono cresciute in famiglie come la nostra e che adesso magari hanno 20, 25, 30 anni, quindi abbiamo un po' indagato su quello che fosse stato il loro percorso e insomma anche in questo ci ha confermato che a parte magari l'episodio omofobico che può capitare, sicuramente magari capiterà, ma che può essere una cosa molto occasionale, diciamo, non è che la loro vita è stata un inferno di discriminazione e di emarginazione. Ci può essere stato l'episodio, ma poi in realtà i ragazzi, la sessualità dei genitori, dei loro amici interessa abbastanza poco, non è un argomento che più di tanto gli interessa di capire se il loro amico è un amico in gamba, un amico simpatico, intelligente, divertente, piuttosto che sapere qual è la sessualità dei genitori della loro famiglia d'origine. Naturalmente poi questo dipende dalle culture, dipende dalle persone. Noi chiaramente le stiamo abituando già ad apprezzare la diversità del mondo, frequentano persone di tutti i tipi, con diverse culture, quindi sono loro abituati ad accettare la diversità e spero che appunto anche gli altri che frequentano siano altrettanto abituati ad accettare la varietà e la ricchezza della diversità del mondo.